Incontri di Gianfranco Fabi. Contento, e con questa canzone, con questa Happy di Pharrell Williams, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera all'avvocato Umberto Fantigrossi. Buonasera a lei. L'avvocato Umberto Fantigrossi è presidente dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti. E ma gli chiediamo subito perché è contento in questa fase, perché questa canzone Happy molto vivace ci invita forse ad essere ottimisti. Ma certo, il diritto amministrativo in realtà sta conoscendo una nuova stagione e anche l'attenzione del nuovo governo non ci preoccupa e anzi ci fa essere speranzosi di interventi intelligenti. Ecco, diritto amministrativo, di cosa parliamo? Parliamo essenzialmente dei famosi TAR, dei tribunali amministrativi regionali. E del giudice d'appello, che è il Consiglio di Stato. Effettivamente c'è una favola metropolitana che è quella che la presenza di questi giudici sia un problema per il Paese. In realtà è una risorsa, perché noi abbiamo necessità di risolvere le liti con la pubblica amministrazione, risolvere rapidamente. Che se ne dica, i TAR e il Consiglio di Stato sono un sistema efficiente, recentemente modificato, risolvono sostanzialmente il doppio delle liti nuove per ciascun anno, quindi hanno una produttività elevata. Naturalmente c'è lo stock dell'arretrato, ma questi ritmi si possono riassorbire rapidamente. Ecco, quindi essenzialmente si tratta delle liti, del contenzioso tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Cioè, i ricorsi che si fanno al TAR, si fa un ricorso al TAR di fronte a certe decisioni della pubblica amministrazione. Quando si parla di giustizia in Italia c'è un po' il riflesso condizionato: la giustizia non funziona, la giustizia ha enormi ritardi, la giustizia porta avanti le cause per anni se non per decenni. Com'è la situazione? Quale fotografia possiamo fare della situazione dei tribunali amministrativi? Ecco, ripeto che la giustizia amministrativa ha una sua specificità, ha un giudice specializzato, ha un sistema che si è formato nel tempo ed è stato recentemente riformato. Non abbiamo appunto le stesse problematiche della giustizia civile o penale, anzi io devo dire che la mia stessa esperienza, la mia stessa scelta di dedicarmi a questo ramo della giustizia è nata proprio nei primi anni della pratica, confrontando l'efficienza dei piccoli TAR rispetto allo stato degli altri tribunali. Ecco, quando si parla di giustizia penale sappiamo bene di cosa si parla. Giustizia civile sono le liti fra persone, tra cittadini, non quando non è implicata la pubblica amministrazione. Quindi diciamo che la pubblica amministrazione non è tanto un problema sotto questo fronte. Lei ha una lunga esperienza, anche perché, lo ricordo, Umberto Fantigrossi è anche una firma dell'Esperto Risponde. Fin dalla sua fondazione l'Esperto Risponde è una delle iniziative del Sole 24 Ore nell'ambito dell'informazione, della consulenza di carattere appunto giuridico, amministrativo, fiscale e così via. Quindi ecco, su questo fronte diciamo che possiamo dire che la pubblica amministrazione funziona un po' meglio? Beh, certamente le IT con la pubblica amministrazione necessitano di una conoscenza specifica della materia, quindi sarebbe assolutamente devastante sia pensare di non avere un giudice quando c'è un atto dell'amministrazione. Questo forse potrebbe essere il desiderata di qualche sindaco, di qualche amministratore, che le loro decisioni non fossero mai messe in discussione, ma credo che in nessun paese oggi si tollera, perché siamo lo Stato di diritto, è un principio, certo, che va avanti dappertutto, e quindi anche nei confronti di un atto autorità ci vuole un giudice, e questo è un fatto rispetto al quale l'Italia è arrivata prima di altri paesi e sarebbe strano che fuggisse arretrando. Ecco, poi naturalmente il giudice appunto deve essere un giudice specializzato, competente, e lo è, e quindi noi riteniamo che il sistema, ripeto, possa essere modificato, anzi ci siano delle grandi spazi di miglioramento, ma sicuramente non rottamato completamente. Ecco, ci sono dei dati che però dicono che forse qualcosa è già stato fatto e andrebbe probabilmente ancora di più messo a punto. I dati appunto del 2013 sono pervenuti ai tribunali amministrativi regionali 54.000 ricorsi in primo grado e ne sono stati definiti 104.000, quindi il doppio. Vuol dire che l'arretrato, che a fine anno ammontava come ricorsi pendenti a quasi 300.000 pratiche, si sta smaltendo, quindi è cambiato qualcosa nella... Sicuramente con il nuovo codice e poi appunto il meccanismo per andare a verificare sui ricorsi ultraquinquennali se esiste effettivamente l'interesse. Teniamo conto che a volte la stessa amministrazione, dopo un ricorso al TAR, non attende l'esito del giudizio, non pone in essere nuovi atti, e quindi certamente la pendenza di un ricorso al TAR di per sé può produrre qualche utilità per qualcuno. Ecco, questi sono i ricorsi sui quali intervenire, ma appunto nel nuovo codice già gli strumenti ci sono e stanno dando degli effetti buoni dai numeri che lei ha dato, questo è dimostrato. Ecco, talvolta si dice che in Italia può essere più utile per chi ha torto fare ricorso, così comunque può andare avanti per qualche tempo. Ecco, nell'amministrativo questo sicuramente non è vero, tanto perché i ricorsi hanno un costo elevato, i contributi unificati anzi per noi sono eccessivi, e poi naturalmente appunto con la pubblica amministrazione incardinare un ricorso vuol dire anche in qualche volta pregiudicarsi una soluzione bonaria. L'avvocatura vuole operare anche come filtro rispetto al contenzioso, quindi svolgere una prevenzione delle liti. Una delle proposte che UNA sta mettendo in campo per i lavori pubblici è quella di rafforzare l'informativa per il ricorso e consentire all'amministrazione che si rende conto di aver fatto un atto amministrativo illegittimo di annullarlo d'ufficio, come può farlo, dopo una trattativa che può essere assistita dagli avvocati ma che si svolge fuori dalle aule della giustizia, e quindi prevenendo il contenzioso e facendo da filtro. Ecco, queste sono delle prospettive molto interessanti sui quali UNA metterà in campo anche della formazione professionale, perché gli avvocati devono essere pronti anche a risolvere le liti prima di andare in aula di giustizia. Ecco, ma in Italia c'è un po' un'altra diceria che riguarda forse più la giustizia in senso lato che non in senso stretto con l'amministrativa, il fatto che ci sono tanti avvocati ed è per questo che c'è tanto contenzioso e i processi durano così a lungo. E secondo lei, anche un po' a prescindere, anche in base alla sua esperienza, prescindendo un po' dal campo amministrativo, come mai l'Italia ha così tanti avvocati? C'è il doppio di avvocati rispetto alla Francia. Beh, ad esempio Milano si dice appunto l'albo più, uno dei due albi dopo Roma più numeroso, però io non vedo avvocati che siano privi di lavoro. Questo ritengo il fatto tanto che l'economia a Milano e a Roma si polarizza, e quindi si polarizza anche il terziario e anche le professioni. Poi noi abbiamo certamente da un lato una legislazione che ha dei problemi e che è la mamma di tutte le situazioni, nel senso che avendo una legislazione poco chiara, appunto sia le imprese sia le pubbliche amministrazioni possono operare in modo difficoltoso, lo stesso giudice può fare una sentenza ma il giudice d'appello la può revisionare perché manca questo quadro di certezza giuridica. Dopodiché, ripeto, non abbiamo situazioni, soprattutto a Milano, in cui l'avvocato è costretto a stare iscritto all'albo perché non trova lavoro. Se sta iscritto all'albo vuol dire che il lavoro lo svolge. Però può essere appunto una logica di un avvocato che porta in lungo le cose pur mantenere il lavoro. Ma questo nell'amministrativo e nel civile non è vero, nel senso che non sono gli avvocati che dispongono dei rinvii. Quindi se c'è un rinvio in una causa è perché un giudice l'ha deciso. Ho capito, qui diciamo è più un problema di giustizia da parte dei giudici su questo fronte, il rinvio di cause, l'allungamento dei tempi, l'efficienza della macchina giudiziaria. Beh, è un problema di riequilibrare, diciamo, la capacità di prestazione del sistema giustizia rispetto alla domanda. Se la domanda è alta non è che io posso uccidere il meccanismo che deve dare la risposta, insomma, o dire è il meccanismo che dà la risposta a creare la domanda. La domanda c'è di per sé. Poi, anzi, investendo risorse, probabilmente queste situazioni di arretrato molto forte si sarebbero potute contenere. Noi abbiamo delle spese di giustizia che sono assolutamente allineate a quelle degli altri paesi, pur avendo una domanda di giustizia superiore. Quindi bisogna fare anche qualche ragionamento sull'economia della giustizia, che nessuno fa in realtà. Incontri. E a ancora con le note di Happy di Pharrell Williams riprendiamo il nostro incontro con l'avvocato Umberto Fantigrossi, presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, collaboratore da lunga data dell'Esperto Risponde e del Sole 24 Ore sui temi specifici della pubblica amministrazione e del contenzioso con la pubblica amministrazione. Ecco, una pubblica amministrazione che in questa fase è un po' messa sotto accusa, la burocrazia è vista come uno degli elementi che frenano l'economia italiana, che pongono degli ostacoli appunto alla crescita del paese. Una riforma della pubblica amministrazione viene invocata da tante parti, indubbiamente nell'ambito di questa riforma anche il contenzioso, anche i tribunali amministrativi dovranno avere la loro parte, il loro ruolo. Allora chiediamo a Umberto Fantigrossi quale può essere il ruolo del contenzioso amministrativo per rendere più efficiente la pubblica amministrazione italiana, che viene spesso accusata di essere tra virgolette borbonica. E appunto la giustizia amministrativa intanto è un rimedio, quindi, e non è il male, nel senso che di fronte a una pubblica amministrazione che non rispetta la norma il cittadino sarebbe indifeso se non avesse un giudice efficiente e competente, e quindi ognuno deve fare un po' il suo mestiere. Ben vengano appunto i progetti di riforma della pubblica amministrazione. Noi tra l'altro abbiamo giudicato molto positivamente la lettera ai dipendenti fatta da Renzi e dalla ministra Madia, intanto come metodo, perché in fondo è la prima volta che si chiede alla società civile di esprimere dei desiderata e di dare delle indicazioni. Credo che questo sia appunto un segno di novità abbastanza positivo. All'interno di questo documento ci sono dei punti importanti e noi siamo appunto disponibili a occuparci di quelli che riguardano in particolare i meccanismi processuali. Ad esempio si parla della sospensiva, che nel materia degli appalti possa essere rivista. Se la soluzione è sostituire un meccanismo cautelare a una definizione nel merito che arrivi velocissimamente, noi non siamo certamente contrari. Abbiamo anche messo in campo una controproposta di cui appunto parlavo prima, che è l'informativa che possa dar luogo, diciamo, a una definizione prima della causa in via di autotutela. Quindi sono tutti degli interventi che, se sono mirati, possono portare un miglioramento. Ecco, approcci più ideologici, nel senso appunto di ritornare a una giurisdizione unica, tutti dal giudice civile, ingolfando aule di tribunale che sono già appunto assolutamente intasate, ingestibili, e questo vorrebbe dire appunto trascinare ancora al ribasso il sistema, mentre appunto il sistema può essere migliorato in una direzione giusta. Ecco, ma andando un po' sul concreto, adesso in questo periodo c'è il grande tema per esempio dell'Expo di Milano, con questi episodi di corruzione o di presunta corruzione che sono venuti a galla e che rischiano appunto di invalidare gli appalti, e quindi qualcuno dice addirittura di bloccare o di ritardare in maniera che sarebbe drammatica, perché l'Expo non può essere prorogato, ha delle date fisse, ecco, rischia di ritardare i lavori per questa grande esposizione. Allora, in questa prospettiva, indubbiamente il problema della giustizia amministrativa entra in gioco. Beh, certamente non dobbiamo dimenticare che per l'Expo, come per molti grandi eventi, è stato attuato un meccanismo di commissariamento straordinario e di sostanzialmente autostrada nelle procedure, assolutamente veloce, alleggerendo tutti i meccanismi di controllo, e questo può avere un costo e aumenta i rischi di legalità. Quindi è chiaro che adesso vengono versate molte lacrime di coccodrillo, perché appunto si doveva ben sapere che il rischio poteva essere questo. Dopodiché bisogna vedere nel caso specifico se è possibile, diciamo, mantenere l'azienda nell'opera considerando l'interesse pubblico, e l'interesse pubblico è anche una diciamo soluzione a volte per mantenere in essere un appalto in un'operazione, certo, in cui davanti a tutto si mette la tempistica. Forse appunto bisognava anche concepire prima dei meccanismi più idonei, che non fossero semplicemente quelli di eliminare pezzi di controllo, perché se si eliminano pezzi di controllo, soprattutto di tipo giudiziario amministrativo, poi non ci si può meravigliare che succedano certe cose. Certo, soprattutto quando gli affari sono grandi, se non imponenti come questo. Però ecco, in Italia c'è anche una certa tendenza della pubblica amministrazione a resistere di fronte ad eventuali contenziosi, ad andare appunto di fronte al giudice. giudice, non, diciamo, c'è la difficoltà a riconoscere eventuali propri errori, mentre in altri paesi esistono figure come funzionari responsabili, sempre in Germania, che si possono assumere anche la responsabilità di fare dei passi indietro. C'è proprio questa logica diversa tra Italia e Germania. Beh sì, indubbiamente è vero, nel senso, noi naturalmente dobbiamo migliorare in alcune cose, fra la capacità dell'amministrazione di risolvere da sé le proprie liti, di prevenirle, magari appunto usando un foro amministrativo, un foro di, diciamo, un'avvocatura specializzata e formata per assistere le parti prima di una causa, questa è veramente la prospettiva innovativa. Ad esempio, una tematica sulla quale l'amministrazione ha ancora un volto molto arcigno e molto antico è il silenzio dell'amministrazione, è il non dirti mai se la pratica va bene o non va bene e prolungartela nel senso. Allora la lotta al silenzio, la lotta all'inerzia è un altro campo in cui bisogna mettere in gioco delle riforme incisive. Io avevo appunto lanciato in qualche occasione anche l'idea forte di costituzionalizzare il diritto alla risposta, perché il diritto alla buona amministrazione, che già è nelle carte fondamentali dell'Unione Europea e quindi anche oggi il nostro principio, è lì che trova il momento vero di prova, nel senso funziona se io posso dire che ho un diritto ad avere in tempi certi una risposta, negativa o positiva che esso sia, ma avere una risposta. Quello che infastidisce e impedisce appunto di avere un rapporto sereno con l'amministrazione è il muro di gomma. Ecco, questo noi siamo in grado di dare una proposta e un sostegno tecnico perché su questo punto si faccia dei passi avanti. Ecco, certamente la pubblica amministrazione spesso risponde in maniera un po' bizzarra anche alle richieste dei cittadini. Pensiamo a quanto per anni si è parlato dello sportello unico per poi scoprire che sì, c'era uno sportello unico, ma era messo prima degli altri sportelli, uno apriva questo e poi si trovava di fronte ad altri sportelli successivi. E questo può voler dire qualcosa anche da un punto di vista del silenzio assenso, per esempio una norma di cui si è parlato molto, ma però dopo se continua ad essere in silenzio anche l'assenso diventa una cosa del tutto virtuale. Quindi sotto questo profilo si tratta poi in fondo anche di serietà dell'amministrazione, di non solo di rifugiarsi dietro alle procedure ma di avere una responsabilità maggiore. Sì, il meccanismo di silenzio assenso tanto coinvolge i terzi, nel senso di dire che poi i terzi a questo punto non hanno un luogo o un momento per far valere il vicino, il concorrente o colui che in un processo amministrativo comunque è parte, in un meccanismo tacito, silenzioso, automatico perde completamente tutela. Poi in realtà lo stesso cittadino, la stessa impresa non ha desiderio solo di avere un via libera, ma di un via libera motivato, perché la preoccupazione potrebbe essere sì, è scattato un silenzio assenso, ma poi l'amministrazione a distanza di tempo può tornarmi a dire che l'attività non era corretta. Quindi sono degli escamotage. La vera soluzione è la risposta espressa, la valutazione effettiva della pratica, naturalmente appunto in termini di serietà, di professionalità. Ecco, in questa prospettiva Umberto Frantigrossi, presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, ha incontrato nella sua esperienza di quelle che vengono chiamate le liti temerarie, cioè il fatto che o c'è qualche aneddoto di qualche lite che proprio va al di là del bene e del male, che magari la pubblica amministrazione in uno stato normale si sarebbe risolto con un po' di buonsenso. Ci può essere stato. Oggi gli strumenti, soprattutto il nuovo codice per combattere la lite temeraria, ci sono. I giudici ancora appunto usano la condanna alle spese in questi casi ed è giusto che ci sia. Non è un fenomeno che ha una rilevanza statistica effettiva, ecco, può essere una battuta più che, ma non c'è nella nostra tradizione di foro, che appunto è un foro specializzato, anzi c'è la funzione contraria. Noi tendiamo a sconsigliare al cliente di fare un ricorso se è infondato. A proposito di consigli, consiglierebbe a un giovane che ha un po' di passione per il diritto di fare l'avvocato amministrativista, lei direbbe di sì, è il suo mestiere, in fondo la presidente. Lo dico contro il mio interesse, nel senso che il foro amministrativo degli amministrativisti è sempre stato un foro ristretto. Oggi però abbiamo veramente tanti giovani bravi, perché effettivamente appassiona molto, come ha appassionato me per tutto questo periodo, lo scontro autorità-libertà, quindi c'è da divertirsi. Però forse si guadagna un po' di più facendo l'avvocato civile che non l'avvocato amministrativo? Ma diciamo, su questo si potrebbero fare dei lunghi discorsi. Se la statistica è che siamo pochi, tendenzialmente il mercato è più ricco, insomma. Quindi in prospettiva, come giudizio complessivo, possiamo dire che l'Italia comunque qualche problema ce l'ha, ma comincia comincia a intravedere anche delle soluzioni anche sotto questo profilo. Anche sì, io mi sento molto in sintonia con la nostra, con la musica che ci ha accompagnato, anche dal punto di vista professionale. Quindi anche questa riforma della pubblica amministrazione di cui si parlerà nei prossimi giorni la vede come un'opportunità che può smuovere un po' anche al di là appunto della logica del contenzioso, anche come pubblica amministrazione in senso generale può smuovere un po' verso l'efficienza questo, in fondo è un pachiderma che ci governa diciamo, un po' tutti. È un po' legato al paese, nel senso di dire non possiamo vivere la pubblica amministrazione o vedere la pubblica amministrazione come qualcosa assolutamente estraneo al paese. Ha i problemi del paese ed è la fotografia del paese. Se il paese crescerà e acquisirà anche degli standard di rispetto alla normativa più elevati, lo sarà, la pubblica amministrazione seguirà. Quindi abbiamo i motivi per essere ottimisti. Sicuramente sì. Grazie mille, grazie a Umberto Fantigrossi di essere stato con noi questa sera, presidente dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti. Grazie anche a Valeria Bernardi in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento è per domenica prossima.